Tempo di sport con Carlo Genta. Per i miracoli c'è tempo, cari miei, buongiorno a tutti. Avete sentito lo spot tra un'ultima domenica senza il calcio di Serie A e poi vedremo lo spottone della prima giornata di campionato, che in realtà è la seconda. Domani si firma questo benedetto contratto. Oggi comunque non ci annoiamo per niente, perché c'è un sacco di sport che si è concluso come i mondiali di atletica, con il botto e con il record del mondo della 4% giamaicana trascinata da Usain Bolt, come il Gran Premio di San Marino vinto da Lorenzo e con Valentino Rossi sempre a navigare controcorrente, giunto settimo. Come la Serie B, tra poco vi do i risultati, come la nazionale di basket che è in campo in Lituania nel quarto impegno degli europei, due sconfitte, la vittoria con la Lettonia e oggi c'è la partita della verità contro la Francia. Ci aggiornerà Dario Ricci, che saluto. Sì Carlo, buon pomeriggio a tutti. Appena iniziato il secondo quarto, 23-20 con gli azzurri, e Cousin stoppa Tony Parker a sottolineare che in questo momento il feeling con la partita è tutto per gli azzurri, che hanno imbrigliato finora abbastanza bene per quanto è possibile il regista dei San Antonio Spurs. 23 punti dicevamo per gli azzurri, ben 11 di Bargnani, che sta continuando sulla scia di quello che era stata la grande prestazione contro la Lettonia, ricordiamolo, 36 punti e 7 rimbalzi, ma c'è anche un buon Gallinari che però ora commette un fallo in attacco e che comunque nel primo quarto ha messo dentro una tripla che ci ha consentito di avere i 3 punti di vantaggio alla fine dei primi 10 minuti di gioco. Ora 9 minuti e 4 all'intervallo lungo, ancora 23-20 per l'Italia sulla Francia. Benissimo Dario, ci aiuterà a tenere il polso di questa partita chiave per i nostri europei, lo ricordiamo, riusciremo naturalmente da qui alle 7 a darvi il risultato finale, a commentare magari insieme a 800 24 00 24, numero verde, questa partita. 17-19 orario di oggi, da domenica prossima con l'inizio del campionato 16:30-19 per raccontarvi tutto, ma soprattutto per parlare con voi e per vivere insieme la stagione sportiva. A proposito, Giorgio De Luca di là in redazione poi mi sgrida se non ricordo che a Tempo di Sport oggi, da qualche giorno, è anche su Twitter e presto sarà anche su Facebook, perché insomma siamo dati questa botta di modernità. Saluto anche Pietro Lacorte in regia. Però adesso in Serie B oggi non abbiamo visto miracoli, come secondo Sky vedremo in Serie A. Io tengo i miei dubbi. 800 24 00 24 per confutarli. Non abbiamo visto miracoli, abbiamo visto però 31 gol fin qui, e con un posticipo ancora da giocare che sarà quello tra Torino e Varese. Questi i risultati delle partite che si sono chiuse da non molto: Regina, Grosseto 1-1, Ceravole, Sforzini, quindi all'ora di nell'anticipo di ieri. Il Brescia ha battuto all'ora di pranzo l'Empoli 2-1 in quella che era forse la partita di cartello della giornata, con i gol di Jonatas su rigore dopo 19 minuti. Quindi il raddoppio di Ferksin nella ripresa, il gol di Tavano per l'Empoli al 40° del secondo tempo, 1-1 tra Ascoli e Vicenza, Vicenza in vantaggio con Abruscato al 37°, pareggio di Romeo su rigore al 5° del secondo tempo, 5 gol in Bari Albino Leffe, vincere Albino Leffe 3-2 sul campo del Bari. Doppietta di De Paola per i pugliesi, per l'Albino Leffe che si scatena nella ripresa, segnano Cocco, Cissé e Girasole, quindi 3-2 per i bergamaschi. Il Padova vince di goleada il derby contro il Cittadella con i gol di Cuffa, Ruopolo, di nuovo Cuffa, doppietta per lui, e di nuovo Ruopolo, due doppiette cui risponde solo Gasparetto. Crotone Juve Stabia è l'unico 0-0 di giornata. La Nocerina vince 2-0 a Livorno, questo è un altro risultato a sorpresa, Farias e Castaldo nella ripresa. Quindi una continua rincorsa tra Modena e Pescara, con il Pescara di Zeman che passa due volte in vantaggio con Immobile prima e con Insigne poi, ma i gol di Greco, De Vitis e Dalla Bona al 91° danno la vittoria al Modena. La Sampdoria vince la sua prima partita di campionato e lo fa con risultato tennistico 6-0 al Gubbio, con le doppiette di Pozzi e di Bertani, i gol di Volta e di Piovaccari. Il Verona batte 1-0 Sassuolo con Ferrari su rigore al 3° del secondo tempo. Dunque questi i risultati della Serie B. Vi do anche i risultati del Moto Mondiale. Oggi si è corso il Gran Premio di San Marino, il grande favorito era Casey Stoner, leader del mondiale, con la sua Honda. Invece Lorenzo sta confermando, secondo me, poi ne parliamo, può essere uno degli spunti di discussione di oggi, insieme alle distrazioni dell'Inter su Forlan, a Capello che mette, dopo aver messo in panchina Baggio e Del Piero, ora lo fa con Lampard. Poi di cosa parleremo? Di Totti, naturalmente, che una volta era al sole sui tetti di Roma, non l'ho detto io ma l'ha detto Sabatini nella conferenza stampa di presentazione, adesso improvvisamente diventa, sempre per lo stesso Sabatini, quello che rischia di ammazzare la Roma. Parleremo anche del mercato appena chiuso, di Zamparini e della sua denuncia. Estorsione! Hanno voluto metà dei soldi che dovevo prendere per Pastore. Gran premio però, oggi a San Marino, Lorenzo, che dicevo, secondo me sta dimostrando in questa stagione di rincorsa di essere veramente un super fuoriclasse. Oggi vince davanti a Pedrosa e a Stoner, quarta, Simoncelli. Valentino Rossi continua a navigare contro corrente. Dispiace per il ritiro di Capirossi dopo 9 giri. Capirossi che ha annunciato il suo addio alle corse proprio in questo Gran Premio. Io vi direi, sentiamo cosa ha detto Lorenzo subito dopo la corsa e poi ne parliamo insieme. Questo è importante, no? La preparazione fisica è una cosa, una delle chiavi, no? Per essere un pilota forte. Però c'è tante pilota con una grande preparazione in MotoGP, allora io penso che tenere la moto messa a punto bene e dopo arriesgare e andare forte è lo principale. In questa pista l'ho potuto fare. Bueno, il campionato sta ancora molto difficile, un po' di meno che prima della gara, ma anche mancano meno gara, no? che prima di questa gara. Allora è realmente difficile battere a Casey costantemente, ma perlomeno lo abbiamo fatto in questa gara, vediamo nella prossima in Aragon. Andiamo di corsa anche Valentino Rossi, oggi settimo. La settimana prossima dovremo provare qualcosa e siamo fiduciosi, ecco. Diciamo che io ho detto alla Ducati quali sono le cose che secondo me non vanno della moto abbastanza chiaramente, adesso sta a loro cercare di tradurre le mie indicazioni in pezzi di ferro, ecco. Dunque questo Valentino Rossi. Invece io saluto Roberto Lungaro, direttore di Riders, una delle voci più competenti in materia. Ciao, saluto a tutti, grazie. Ciao direttore. Ciao. Io stavo facendo questo ragionamento magari bizzarro. Lorenzo, campione del mondo in carica, sta forse dimostrando in questa stagione in cui deve rincorrere di essere un super fuori classe, perché rischia di portare via il mondiale a Stoner, che ha la moto più forte, che sta andando benissimo soprattutto in prova eccetera, e invece Lorenzo combatte e vince. Esattamente, lui ha un'unica possibilità: metterlo sotto pressione psicologicamente. Stoner arriva da 3 vittorie, l'unica cosa che poteva fare è stargli davanti, fargli sentire la pressione, dargli fastidio e proprio così stimolarlo, e così ha fatto. Anche perché Stoner è in una forma strepitosa, vederlo guidare è impressionante, solo lui guida così. La moto di Lorenzo è molto bilanciata, è vero, il caldo è stata una gran botta, è umido per tutti, ma non è che ci sia un pilota preparato e l'altro no, sono tutti a dei livelli pazzeschi perché sono dei gran professionisti, quindi Lorenzo non è che ha vinto perché ha avuto più fisico. Lorenzo ha attaccato dalla prima curva, ha tenuto, ha girato a un ritmo pazzesco, ha fatto vedere di essere il campione che è, ed ha ridotto da 44 a 35 lunghezze, si è riaperto il campionato. Dani anche lui si è infilato, bello vedere che non c'è gioco di squadra in onda, questo certo. Vuol dire che non è fatto tutto a tavolino. Dispiace invece vedere un Dovizioso che ti dice nel warm up abbiamo capito per i consumi che dovevamo limitare la potenza, ed ecco che invece che il solito 2-3% in meno la percentuale sta molto più ampia e lui è partito già demotivato. Andiamo sempre di più verso una Formula 1, io mi auguro che non arrivi la telemetria bidirezionale, cioè che dai box comandano come se fosse una PlayStation e noi non sappiamo neanche quello che sta succedendo. Speriamo che si torni un po' indietro, non dico senza elettronica perché sarebbe troppo insicuro oggi come oggi, però per lo spettacolo, per fortuna ce l'ha regalato Dovizioso Simoncelli gli ultimi giri, veramente sembra di vedere il mondiale alla vecchia maniera quando lo commentavo io 5-6 anni fa, sì. Quello ha esaltato, sì. Io al direttore di Riders Roberto Ungaro giro questo messaggio SMS. Stoner certo molto bravo, un campione, però paragonarlo a Rossi sarebbe come paragonare Messi a Maradona. Quest'ultimo ha vinto molto da solo, Messi solo con una grande squadra, Rossi ha vinto mondiali con mezzi inferiori, Stoner no, lo scrive un ascoltatore di Vigevano. quello che ha fatto Rossi non si cancella e nessuno penso lo ripeterà più. Il tempo sul giro, manetta pura, talento, stoner, fa spavento ed è come Rossi, forse qualcosina in più, se diciamo il giro secco, poi strategia, messa a punto, saper portare una moto ad essere vincente, trascinare la squadra. Valentino ha un'energia che nessuno ha. Stoner ha chiesto direttore, solamente ha o aveva? Ha ancora voglia, io l'ho visto personalmente nelle prove e in prova dici lui stesso è il primo a non crederci, proprio non osa, non c'è niente da fare, lo vedi che in curva è quasi tentennante, non attacca, non ha quella fame che dovrebbe avere. Poi invece in gara con l'esperienza, all'inizio avete visto che Lugo c'è d'acqua, sembrava potesse venire fuori, è venuto fuori, lui non è finito, ma è lui stesso che fin quando non avrà una moto, come dice lui, perché a 32 anni non cambia il suo stile di guida, la Ducati è una moto che ha tanto peso centrale anche dietro al retrato, lui è nato su una moto molto agile sul davanti, prima Honda poi Yamaha, quindi finché la Ducati non sarà una moto così, lui non può più cambiare il suo stile di guida a 32 anni, dopo quello che ha fatto, ormai è un pilota formato, la manetta ce l'ha, non ha disimparato ad andare in moto, quello che lo salva è questa fame di arrivare a fare il risultato. In America poteva benissimo ritirarsi e invece ha fatto, diciamo, quella figura, è arrivato fino in fondo perché sa che comunque è importante fare chilometri, fare esperienza, cioè l'obiettivo lui ce l'ha in mente. In Ducati devono scegliere, lei è ormai sicuro, certo, che debbano fare un telaio, hanno due soluzioni differenti, quella che faranno adesso, la proveranno a Mugello, è parziale, è diciamo un mini telaio, non è quello vero definitivo. Sì. Il marketing della casa bolognese dice di no, perché a novembre a Milano presenteranno la nuova Superbike, si chiama Extreme, che ha il motore portante, e quindi il marketing dice cosa facciamo, andiamo a fare una moto nuova che non ha, che ha il telaio, quando noi la nostra bandiera è il motore portante. Oggi come oggi, a mio avviso, il marketing non può più avere la forza, la ragione, non può più decidere come in passato, perché il mercato si è evoluto, i numeri non sono più quelli di prima e non è poi così una vetrina come in passato. Le corse, il prototipo è lo stato dell'arte di una moto e vale tutto pur di arrivare a vincere, è un po' come il budget delimitato della Ferrari, no? Si diceva tanti anni fa, cioè nelle corse a livello di prototipi, e poi qui ci sarebbe da aprire una parentesi perché l'anno prossimo avremo in mezzo le CRT, cioè le derivate dalla serie, gran confusione vederle assieme. Volevo dire, prototipi, stato dell'arte, qualsiasi cosa vale per arrivare al risultato, quindi secondo me se il telaio serve per dare a Valentino una moto per andare a vincere, deve farsi questo telaio, cioè la Ducati deve farlo. Cioè devono ammainare questa bandiera del motore portante, tu dici? Sì, del telaio a traliccio, sai, la classica è il bicilindrico V, che adesso abbiamo ormai a 4 cd, però sono cose che hanno fatto la storia, è vero, ma il mondo si evolve, cambia tutto e l'importante è vincere, non si può rimanere ancorati al sistema desmodromico che è nato 30 anni fa, per dire, quando la tecnologia va avanti, soluzioni, materiali, è un continuo evolversi, è un continuo work in progress e quindi non si può rimanere ancorati a quella bandiera se quella bandiera diventa un freno a mano. Certo. Questa è la mia opinione, la mia visione di grande appassionato di corse, ma il campionato prototipi va in questa direzione, mio avviso. Ma anche perché tu parli di marketing, però se consideriamo il moto mondiale per una casa come la Ducati, comunque la punta del marketing è tu fai questi risultati con il pilota più esatto, straordinario della storia forse, allora esatto, diventa un marketing al contrario. Esatto, perché il marketing di Ducati sono le corse, forse per un altro brand è tutt'altro, e allora ci vogliono tanti cervelli che studiano numeri, però ripeto, i numeri non ci sono più, la moto sportiva sta finendo. Piccolo esempio, ma che fa capire l'ascoltatore, 4 anni fa una moto giapponese da super sportiva ne importava 4.000 esemplari, oggi 300, quindi iniziamo a ragionare su questo. È vero, patente a punti, ormai sono estremizzate, non vale più, sono delle moto da corsa con targhe fanali, non ha senso andarci in giro, però una serie di cose, io le voci che si sentono purtroppo non sono bellissime, il Giappone è in crisi, si dice che Yamaha è in grossi dubbi se andare avanti nel 2013, perché sapete che non ha un main sponsor, Yamaha corre col proprio nome sulla carena. Il contratto biennale di Ben Spies e Lorenzo scadono entrambi l'anno prossimo. 2013, se non arriva uno sponsor, ha ancora senso andare avanti e investire, spendere così tanto? Ci sono tante voci a riguardo, allora bisogna un attimo, secondo me, mettersi a un tavolo. L'importante è che lo spettacolo non venga mai meno, quello certamente, no, perché altrimenti certamente non è più il motociclismo. Direttore, ti chiedo ancora una cosa, che è un pensiero che va a chi ha annunciato il ritiro, cioè Loris Capirossi l'hai raccontato mille volte, tu prima citavi le telecronache con Marco Lucchinelli straordinarie, no? Mille volte hai raccontato quello che ha fatto Loris Capirossi, che è arrivato alla fine, fisiologicamente alla fine, sì, della carriera. Sì, allora io una mia riflessione personale: lui è entrato con la faccia da bambino, con quegli occhioni e il sorrisetto così da Pierino la Peste, se ne va facendo vedere quegli occhioni lucidi, ma lo sguardo da bambino e Pierino la Peste rimane, quindi qualche ruga, un figlio, gli anni, tre titoli non lo hanno cambiato dentro. Grande lottatore, il cuore oltre l'ostacolo, all'inizio talento strepitoso, il più giovane campione del mondo 105, nel corso della sua vita professionale ha fatto anche dei disastri, diciamolo, perché il campionato vinto su Arada non è stato proprio correttissimo, sì, all'ultima curva quando si appoggiò proprio contro di lui. All'inizio non era un palato fino, sensibile a mettere a posto le moto, i tecnici, chi è dentro al settore lo sa, dicevano che lui stracciava i fili del gas, ci metteva del suo, ma non è che ne capisse poi tanto. Si è affinato in corso d'opera, con la Ducati ci ha regato spettacolo, ci ha fatto vedere che con una mano rotta arriva in fondo alla gara, cioè è il vero eroe di una volta che c'è ancora, e secondo me ha dato tanto comunque al motomondiale. Si chiude un'epoca, si chiude un'era, perché quello che ha fatto lui in pochi l'hanno fatto. A mio avviso non starà fermo, perché non è capace di stare fermo, cioè Monte Carlo, una bella famiglia, anche far più figli, la barca non è la sua vita, sono andato a farci trial assieme, lui non riesce a stare fermo, cioè la moto ce l'ha inside, quindi aspettiamoci, magari non come manager, ma qualche cosa farà. Grazie direttore, buon lavoro. Buon lavoro a te, un saluto a tutti, ciao. E buon viaggio a Roberto. Grazie. Ungaro, sempre. Dunque 800 24 00 24, se volete intervenire su questo o su altri argomenti. Poi già vi dico che parleremo di un mondiale di atletica in cui oggi abbiamo visto, come accennavo nella gara di chiusura, abbiamo finalmente visto sul serio il lampo, intravisto ieri nei 200, in quella vittoria che era, non dico scontata, ma quasi. Ebbene, oggi il lampo l'abbiamo visto, forse anche negli occhi di Usain Bolt, dopo aver portato la Giamaica al record del mondo, 37,04. Seconda e medaglia d'argento la Francia, con le metre che comunque rimane. Questi mondiali hanno tutto sommato consacrato ai vertici totali dello sprint. Bronzo oggi all'eterno Kim Collins con St. Kitts e Nevis, un'Italia che, insomma, con gli Stati Uniti che hanno combinato pasticci, l'Inghilterra anche con le cadute eccetera, Italia che si piazza al quinto posto. Chiudiamo questa spedizione con una medaglia, che è quella, come sappiamo, di Antonietta Di Martino, conquistata ieri il bronzo nel salto in alto. Uno è sempre meglio di zero, cosa capitata a Berlino 2 anni fa. Prima di parlarne voglio sentire un altro aggiornamento sull'Italia invece del basket, che si sta giocando il suo europeo. Dario Ricci. Sì Carlo, un minuto alla fine del secondo quarto, azzurri ancora avanti di 3 punti, 42-39, teniamo botta contro questa Francia. Adesso c'è stato il canestro di Traoré, stiamo pagando sotto canestro 17-9 i rimbalzi per i transalpini, ma la buona notizia è che riusciamo a limitare Tony Parker. Pochi istanti fa un'azione emblematica con Mordente che ha puntato dritto il canestro, proprio Parker lo ha commesso il fallo e Mordente ha siglato i 2 tiri liberi. Adesso una splendida tripla di Bellinelli, 12 punti per lui, 3 su 4 nelle triple. L'altra buona notizia è che cominciano a entrare i tiri da 3 punti, che sono stati il grande assente del tabellino azzurro finora in questo europeo. Ebbene, Bellinelli ha siglato questa tripla, poi il canestro francese 45-41 quando mancano 7 secondi. Seguirei questo attacco, Carlo, così vediamo come finisce questo parziale. Ancora Bellinelli prova la tripla da 9 metri, entra, 48-41, e a vederla l'azione, Carlo, vuol dire che qua lassù tra gli dei del canestri qualcuno ci ama oggi. Speriamo fino in fondo, perché oggi è vivere o morire, cioè dentro o fuori, bisogna vincere con la Francia e poi sperare, perché non basta per garantirci la qualificazione. Ci sarà l'ultima partita contro Israele, che oggi ha battuto la Lettonia, ma soprattutto siamo legati ai risultati degli altri. Questa sera c'è Germania-Serbia estremamente importante. La partenza corsa è valida. Allora occhio all'Italia in seconda corsia, la Giamaica è in sesta, gli Stati Uniti in quarta, partiti subito forti gli statunitensi. Questo è Michael Toomey, il cambio con Simone Coglio, cambio perfetto direi per gli azzurri, che in questo momento si vedono passare all'interno da St. Kitts e Nevis. Lì davanti Stati Uniti e Giamaica sono più o meno appaiati. Questo è Emanuele Di Gregorio, il terzo frazionista azzurro, forza ragazzi. Adesso gli Stati Uniti e la Giamaica lottano per la medaglia d'oro. L'ultima frazione, Fabio Cerutti per l'Italia, mentre c'è Usain Bolt che se ne va, e c'è stato un problema per gli Stati Uniti. Non abbiamo visto gli Stati Uniti, hanno combinato un guardo. Record del mondo 37.04. Abbiamo visto, caro Giorgio Rondelli, buongiorno. Buongiorno. Abbiamo visto oggi il lampo. Beh, era anche preventivato il lampo numero 2 dopo il lampo di ieri sui 200 metri 19.40. Direi uno schiaffo in faccia a tutti i dietrologi che avevano parlato di chissà, avevano tirato in ballo tante stupidaggini. Come l'hai visto correre Bolt? Ma l'ho visto correre, non era proprio il Bolt diciamo devastante così, comunque un Bolt superlativo, perché 19.40 nella storia dell'atletica ci sono solo tre tempi migliori, che sono tre primati del mondo: il 19.32 di Atlanta 96 di Michael Johnson, il 19.30 di Pechino 2008 e il record del mondo 19.19. È passato in 9.98 9,97 i primi 100 metri, poi ha fatto 10 e poi 9,43. Più veloce di lui è andato negli ultimi 100 metri il francesino Christophe Lemaitre. Ti piace, Lemaitre? Ma sai, 19,80, intanto ha tolto 36 centesimi, sì. Così è il secondo bianco di sempre e l'occasione c'è gradita per ricordare il grande Pietro Mennea, che è il primatista europeo con 19.72, è il primo bianco, mi pare al decimo posto nella lista all time. Sì. Quindi, ma grande è stato anche Walter Dix, perché i primi 100 metri ha impegnato severamente Usain Bolt, che poi dai 100 ai 150 ha aperto il gas e ha fatto la differenza. Sì, terzo posto per St. Kitts e Nevis con l'eterno Kim Collins, il vecchio Kim Collins, 38.49. Attento al domandone, staffetta azzurra 38.96, si poteva fare meglio e magari complice il pasticcio degli Stati Uniti, quello della Gran Bretagna, si poteva fare di più? Ma si, diciamo, come piazzamento, ecco, io quello che mi ha un po', beh, non indignato è una parola sbagliata, ma è un po' così infastidito, è il fatto che i nostri che hanno corso piano, perché 38.96, cioè erano straultimi all'ultimo cambio, poi il pasticcio, sì, degli Stati Uniti e della Gran Bretagna ha messo fuori causa Stati Uniti, Gran Bretagna e soprattutto Trinidad, sì, che pur intralciato a momenti non ci prende, quindi noi eravamo ultimi, 38.96 un tempo da ultimi, che se avessero corso in 38.40, ma voglio dire per come hanno corso male, hanno pagato probabilmente la tensione di passare la semifinale un'ora e mezza prima. E voglio dire, il quinto posto è grasso che cola. Sì. Cioè, non è che... Sì, resta appunto il fatto che correndo sui tempi, sì, del primato italiano arrivava la medaglia. Cioè, sì, così, facendo i conti, sul 38.49, 38.40 arrivava la medaglia. È vero, il rovescio della medaglia è che correndo così piano trovarsi quinti è un regalo della sorte. Certo, un pasticcio, probabilmente la pressione delle altre squadre per arrivare al cambio, soprattutto degli Stati Uniti che chiaramente vivevano in prima linea questa grande sfida con la Giamaica, che avevano vinto poi alla grande nella 4% femminile, dove, sì, tutto sommato sembrava favorita la Giamaica, visto il quartetto di partenza. E comunque, il record è arrivato all'ultima gara ultima della chiusura. Beh, dai, fuoco d'artificio finale. Adesso approfondiamo il discorso sulla giornata di oggi e sul bilancio complessivo di questi mondiali d'atletica, che come detto ci portano una medaglia, medaglione, medaglietta, fate voi. Per la gara fatta dalla Di Martino ieri, certamente una medagliona, però rimane un fuoco nel buio isolato come al solito. Uno è meglio di zero, come avevamo fatto a Berlino, però parliamone. Allora, Italia-Francia, primo tempo 48-41, per noi la partita decisiva per l'Italia agli europei del basket. C'è chi mi scrive... 349-238-6666. A Roma il nuovo allenatore, prima cosa che fa, si massacra con Totti. Alla Juve via altri 10 giocatori. Il Milan cerca una mezz'area e lascia andare Pirlo. Il ministro dell'economia lamenta solo 4 giorni per la manovra. Ma questi la storia la studiano, si preparano per il lavoro che fanno o pensano che il mondo si inginocchi a ogni loro starnuto? Scrive Giuseppe. Non capisco bene cosa c'entra il ministro dell'economia con Pirlo e con Totti, ma tanto di questi argomenti, non del ministro dell'economia ma degli altri, parliamo dopo. Intanto Giorgio Rondelli non è in grandissime condizioni fisiche, ma è qui con noi e stiamo parlando dei mondiali di atletica. 800 24 00 24 per intervenire, se volete, da ora fino alle 19. Vi ricordo che siamo anche su Twitter, ci siamo modernizzati alla grandissima. Giorgio, altri risultati di oggi al di là di questo lampo finale della Giamaica di Usain Bolt? Mo Farah che riporta in Europa il titolo dei 5.000. Quindi negli 800 metri c'è Maria Savinova che batte Caster Semenya negli 800. Qui per una volta faccio un po' io il dietrologo un po' così. La retta finale della Semenya non mi ha convinto. Cioè alla fine erano tutte contente. La Savinova che ha vinto il titolo. La Semenya che è tornata a grandi livelli ma non ha vinto e quindi... polemiche attenuate. Cosa vuol dire che l'ha fatto apposta? Non lo so. Io ho visto le altre atlete, la faccia delle altre atlete sul rettilineo finale. Intanto premesso che ha vinto con un grande tempo la 1.55, adesso 80. Lo dico io, 1.55-87, contro 1.56-35 di Caster Semenya. Io ho visto una Semenya che sembrava passeggiarsi. Disinteressata. Ma non lo so, ripeto, l'ho vista molto felice di questo secondo posto, così. Comunque è stata sicuramente una bella gara. Tu hai ricordato bene Mo Farah, dopo essere stato scottato sui 10.000, ha vinto bene con grande autorità i 5.000 metri, forse la GAT, che era il rivale più accreditato, si è fatto un po' rubare il tempo dagli altri due etiopi, Gebremeskel e Merga, e poi per rimontare con una volata così importante, così intensa, e dopo sulla retta non poteva più, perché poi Mo Farah non ha ceduto, quindi bene per Mo Farah. Quindi tra le altre gare poi di giornata, si è visto questo americano, una novità assoluta nel triplo, Christian Taylor 17 sì. E 97, che credo che sia il quinto risultato mondiale di sempre, ha solo 21 anni, quindi è un atleta che insomma si pensa possa, non so se attaccare il primato di Jonathan Edwards, ma sicuramente poter andare oltre i 18 metri. Sì, spedizione azzurra, e qui arriviamo. Partiamo dalla gara di ieri della Di Martino. Questi due metri saltati al terzo tentativo con grande rabbia, con grande agonismo. Sì. Non poteva probabilmente fare di più. Ma lei ha detto, ci sono dei dati di fatto, lei quest'anno all'aperto ha fatto tre gare, cioè il 2 metri di Malaga il 6 sì. agosto, la qualificazione che lei ha riconosciuto non essere stata una passeggiata, perché 1,95 al mattino, e poi è stata perfetta fino a 1,97, misura che le aveva già dato praticamente il bronzo. Sì. Poi, anche se poi è passata un po' in cavalleria, ci sono stati il primo e il secondo tentativo delle altre due russe in finale, la Scolina e la Slesarengo, che sono andate molto vicine a fare i 2 metri nelle prime due prove, che l'avrebbero scavalcata. Così non è stato, e poi lei veramente è riuscita a tirar fuori tutto ai 2 metri e addirittura a sfiorare i 2,03 metri alla seconda prova. Lei ha un salto dove esprime il 110% delle sue possibilità, grande sì. velocità di entrata, perfetto controllo del corpo sull'asticella. Se si vede lei in paragonare con gli altri due fenicotteri, la Cicerova e la Blanka Vlasic, che vanno dall'1,80 all'1,92 sì, sì. Ci si chiede quanto sia forte di testa e quanto sia forte dal punto di vista tecnico. Certo. Quindi diciamo che ha salvato lo zero titoli perché l'ultima medaglia l'aveva pure presa lei sì. In ordine cronologico a Osaka 2007. Poi se adesso mi chiedi un mio giudizio sulla spedizione azzurra è negativa. Prima di tutto anche perché nel placing table che tiene conto dei primi 8 classificati nelle varie gare, abbiamo totalizzato complessivamente 17 punti, che è il peggior risultato della storia azzurra dal 1983 a questi mondiali. I 4 atleti che hanno preso i punti, staffetta a parte, si va dai 38 anni di Vizzoni, ai 37 di Pertile, oggi molto bravo, ottavo nella maratona, ai 33 anni. Tu mi dici che negli ultimi 2 anni non è successo nulla, cioè nulla è migliorato, nulla si è mosso, nulla è cresciuto, nulla si è spostato. No, casomai si abbiamo fatto dei passi indietro. No, dei passi indietro, perché si è perso per motivi vari, così qualcuno anche casuale, la gestione delle punte. Non c'era Andrew Howe perché si è rotto e si rompe troppo spesso. Sì, resta da chiedersi se Howe possa essere sì, una punta a livello mondiale. Schwarzer, che insomma con l'intervista si dice contento del nono posto, dice vabbè perché è così. La Kuzma, che era arrivata sesta sugli 800, non c'era addirittura, non aveva fatto neanche il minimo. E poi, diciamo, un po' mortali sono stati anche le due tripliste, la Lamantia, argento, dietro la campionessa mondiale Saladuca, che non si qualifica. Donato, che si qualifica all'ultimo salto in fase di qualificazione, assolutamente anonimo nella finale, che pure era un atleta esperto, che quest'anno ha saltato 17,73, misura che gli avrebbe valso l'argento. Certo. Vabbè che uno non può sempre dare il massimo, quindi diciamo che oltretutto non si vede nella generazione di mezzo atleti che possano fare un salto di qualità. Senti, quindi è un'atletica un po' da, a mio avviso, un po' da ricostruire, perché anche, ripeto, vedo che anche nelle dichiarazioni alla televisione, cioè, gli atleti sembra aver perso la realtà. Qualcuno dice: ah, sono contento, due anni fa ero rotto, la 4% era, come abbiamo detto prima, ah, potevamo prendere il podio, ma ragazzi, cioè, fatevi il segno della croce e ringraziate gli Stati Uniti, se no eravate ottavi. Certo. Un po' di sano realismo non guasta. Certo. No, la mia credibilità presso gli ascoltatori è nulla, a me al massimo chiedono giudizi estetici, come è successo ieri, se preferisco l'Isimbaeva o Blanca Vlasic o la Felix. Tu sai per chi va la mia passione, ma tanto. Sì, ma poi ci sono altri, la Cliscina, credo la Blanca. Uberalles, Blanca Uberalles. Uberalles, tu lo sai. Piuttosto, visto che la mia credibilità è nulla, approfitto della tua presenza. Tu hai allenato Kova, lo sappiamo, hai allenato Panetta, grandissimi atleti, hai portato all'oro Kova a Los Angeles, eccetera. Quindi la domanda da uomo della strada, quale sono, che ti faccio, è: va bene lo sprint? Va bene i salti, va bene la staffetta veloce, però perché non riusciamo più a trovare atleti di punta, dopo Valdini ad esempio, nel fondo, nella marcia, in questi sport di fatica, in cui esce Brugnetti e vince l'oro, esce Valdini e vince l'oro, e c'era Kova, c'era Panetta, eccetera, eccetera. Non abbiamo più voglia di far fatica? Ma non lo so se è così. Io credo che manchi un po'... ripeto, una visione realistica della realtà internazionale, la voglia anche di fare fatica, e anche lo aggiungo così, magari anche con una piccola vena polemica, che anche lo stipendio sicuro, visto che il 90-95% degli atleti gareggia per club militari, invece di spingere a fare bene, a un certo punto si accontentano, non si fanno delle scelte anche di andare a confrontarsi all'estero, di cambiare, insomma, comunque di allenarsi di più, insomma. Non a caso lo stesso Pertile, che è arrivato ottavo, che ha fatto una grande gara nella maratona, oggi vinta da Chirui, che guarda caso è allenato da un tecnico italiano, Renato Canova. Quindi abbiamo esportato i nostri migliori tecnici, li abbiamo lasciati anche andare via, ormai adesso allenano gli africani, e soprattutto nel fondo, e con l'esperienza che hanno, poi si può ricordare anche il gruppo del dottor Rosa, quindi... insomma, sarebbe un po' tutto da ridisegnare, e soprattutto anche la crisi dei grandi club civili, come era anche la mia società, la Pro Patria, che aveva ottimi mezzi, una grande struttura, anche medica e fisioterapica, adesso non c'è più. Sono molte ragioni sicuramente, però il livellamento, lo stipendio sicuro, la poca fame, la voglia di sacrificarsi, perché credo che stia un po' alla base. E poi, secondo me, c'è sicuramente una cattiva gestione delle punte. È chiaro che andare a fare la voce grossa con un ragazzo emergente è abbastanza facile, Carlo. Sì. Magari andare lì a strapazzare, non so, Andrew Howe piuttosto che Schwarzer, così, e bisogna... No, dico, nel senso che se vedi qualche scelta che non ti convince, bisogna avere un pochino più gli attributi, e forse qualcuno... Certo. Anche perché non vai a parlare con un Aui che è pluricampione del mondo, ma con uno che è relegato, complice un sacco di infortuni, a ruolo di eterna promessa. Ci fermiamo un attimo per il traffico e poi parliamo anche un po' di calcio, Giorgio. Sì, assolutamente, calcio, sì, perché dopo, sono un calciofilo anch'io. Lo so benissimo. Giorgio Rondelli, collegato con noi, c'è un tuo e nostro amico, Massimo Callegari. Buongiorno Massimo. Sì, anche allievo di Giorgio quando commentavamo l'atletica insieme su Eurosport. Massimo, buonasera. E allora dimmi la tua su questi mondiali di atletica, Massimo, che poi parliamo di Capello, che mette dopo Baggio e Del Piero mette in panchina anche Lampard. No, devo dire che li ho seguiti non mi è capitato spesso ultimamente di poterli seguire così in maniera così costante, anche per gli orari che erano buoni insomma per noi. E, da spettatore devo dire li ho seguiti con grande entusiasmo, alcune gare mi hanno veramente esaltato e penso di essersi rimasto male come tanti, perché domenica scorsa ero lì che avevo programmato la domenica per vedere Bolt e invece non l'ho visto, però l'ho visto oggi, un po' si è rifatto. Beh, oggi sì. Ma abbiamo visto anche un lampo nei suoi occhi, più di quanto ne avessimo visto ieri dopo i 200, sì. Evidentemente ha sofferto. Ma c'è un Bolt nel calcio, che Massimo? Sì, beh, penso che non ci siano dubbi che c'è. È un po' più piccolo e bianco e gioca in Catalogna. Questo. Sì, ma qui no? Rischiamo di aprire una parentesi epocale, tu lo sai, no? Sì, come la penso io. Quando lo vedrò caricarsi sulle spalle l'Argentina e fare qualcosa di importante ai mondiali, allora parleremo di paragoni illustri. Prima di allora è la superstar del super club, no? Sì, è un po' troppo grande come parentesi, io non lo penso come te, però penso che la responsabilità dell'Argentina, della squadra e degli allenatori dell'Argentina siano superiori a quelle che ha lui e che ha avuto lui, però. Quando lo vedo vincere il mondiale con Burruciaga e Valdano star di contorno e con un pugno di mazzulatori, allora poi ne parliamo. Sì, però erano altri tempi, le altre squadre erano meno organizzate e poi c'era anche un clima particolare in quel mondiale in cui era difficile come squadra confrontarsi con un giocatore solo, no? Fermarlo, c'era un caldo pazzesco, in Sudafrica a me si è trovato un clima diverso e un allenatore anche che non era così attento come Bilardo era stato con Maradona, insomma, però... Senti, ma andiamo in braccio a Capello, che hai commentato l'Inghilterra contro la Bulgaria l'altro giorno. Capello che dopo Baggio e Del Piero adesso fa fuori Lampard per la prima volta nella storia. Sì, è stata una scelta che ha lasciato sorpresi molti cronisti inglesi anche lì a Sofia, e poi il risultato non era così complicato da raggiungere, visto che le qualità della Bulgaria allenata da Matteus in questo momento, le qualità di base proprio sono veramente limitate, però è stato soprattutto, almeno così l'abbiamo interpretato, un messaggio alla nazione e ai naviganti in vista degli impegni prossimi che sono con il Galles e con il Montenegro per la qualificazione e poi naturalmente del campionato europeo, perché hanno giocato giocatori con caratteristiche un po' diverse come Parker, che comunque è un ottimo centrocampista, e Barry che gioca nel Manchester City, e poi una squadra con due esterni che viaggiavano belli offensivi e Young e Rooney, che sono la coppia su cui Capello credo costruirà le sue speranze al prossimo europeo. Però unita a un'altra scelta che è stata quella del difensore centrale, perché Terry il giorno prima in assenza di Ferdinand aveva detto mi trovo benissimo con Phil Jones, il nuovo del United, un grande giocatore, e l'aveva un po' sponsorizzato, Capello l'ha mandato in tribuna, Jones, e ha scelto Cahill, quindi sono state due scelte soprattutto, no, per ribadire la sua leadership, e per ora va bene, basta così. Poi c'è sempre questo problema che l'Inghilterra dimostra di avere giocando in casa e facendo fatica, cioè non riuscire poi a imporre il suo gioco, di non avere un gioco così chiaro e armonioso, però intanto... Però sono giochi di potere, un po' di autostima. Giochi di potere, tanto che Terry mi pare oggi abbia detto nessuno è intoccabile, nemmeno io. Vedi, si è un po' riposizionato anche lui, ha capito il messaggio anche lui, si vede che era un po' diretto anche a lui quello di Capello per Lampard e anche per l'altro difensore centrale. Sì, però sì. Insomma, in generale è stata anche una prestazione convincente sul piano dell'atteggiamento dell'Inghilterra. E poi Rooney è tornato a segnare una doppietta dopo due anni, questo è un altro segnale importante per l'Inghilterra. Certo. Giorgio. Massimo, a proposito di intoccabili, il tuo punto di vista sulla vicenda di Totti? Credo che lì siamo di fronte a un dogma, no? Perché poi io ho diversi colleghi romani, loro continuano a dire che chi a Roma riesce a giudicare questa cosa in un modo, la giudica in un modo, noi che non siamo a Roma non riusciamo completamente a interpretare esatto, no? Il modo in cui viene affrontato appunto in maniera quasi dogmatica questo aspetto. Io credo che non sia così casuale l'atteggiamento della società e di Luis Enrique, e quindi in questo caso credo che Totti abbia qualche ragione a essere un po' in difficoltà e a non voler subito appoggiare del tutto questa nuova strategia, perché lo tocca direttamente. Credo anche però che se lui riuscirà, e questo dipende solo da lui e un po' anche dall'ambiente che lo supporta, ad accettare di fare qualche partita in meno o qualche minuto in meno, la Roma potrà solo trarne giovamento, perché io sento continuamente giudizi molto più positivi per il mercato della Lazio, che è stato invece molto più su nomi altisonanti ma esperti rispetto a quello della Roma, e credo invece che il progetto della Roma sia molto più interessante, sì, e più a intrigante. Medio e lungo termine possa essere anche molto più produttivo, però qui si gioca moltissimo già, cioè la delegittimazione eventuale di Luis Enrique di conseguenza sarebbe immediatamente una delegittimazione già del progetto, dei dirigenti, quindi lo sanno anche loro, e qui si gioca tantissimo e bisognerà un po' venirsi incontro, e dipende già da come andrà domenica prossima con il Cagliari all'Olimpico. Non c'è dubbio che sia così. La posizione della società mi sembra il punto importante, il punto centrale, perché Sabatini, ricordo ancora, prima conferenza stampa, Totti al sole sui tetti di Roma e via sviolinando di questo in questo modo, in modo anche un po' sospetto, e l'altro giorno, per la prima volta nella storia, la presa di posizione della società che dice Luis Enrique va davanti, Totti si adegui. Massimo, io invece volevo chiudere con un altro argomento che mi sta a cuore, dicendo che il Brasile deve essere proprio messo male se deve richiamare Ronaldinho. Sì, perché domani sera lo seguiremo su Premium Calcio alle 20:45, questa amichevole a Londra con il Ghana, e torna Ronaldinho dopo quasi un Pensa anno. Un po', peraltro, non ne hanno più. Tra un po' Rivaldo, che prima ho visto segnare con un 40 anni, colpo sotto con la maglia San Paolo. Vabbè, se servono Rivaldo e Ronaldinho, siamo a posto. No, devo dirti che sul campionato brasiliano in questi anni, l'esempio di Adriano, che era stato da capocannoniere, poi l'abbiamo visto qui in Italia in grande difficoltà, non è mai stato un parametro, no? Cioè, certo. Che il ritmo è molto lento, eccetera. Però bisogna dire che Ronaldinho è tornato a ottimi livelli per quel tipo di calcio, ha segnato 12 gol in 18 partite, che comunque sono parecchi, alcuni anche molto belli. La scelta di appoggiarsi su di lui è un po' anche nazionale popolare, perché l'allenatore, il commissario tecnico Menezes, dopo la Coppa America ha un gradimento bassissimo, e in Brasile tutti spingono a Ronaldinho. Bisogna anche dire, Carlo, che è vero che Ronaldinho da tanti anni è ad alti livelli, noi l'abbiamo visto in parabola solo discendente, però è dell'81 e quindi dell'80, quindi dal punto di vista anagrafico teoricamente è ancora in grado di fare qualcosa di importante, cosa che stiamo dicendo da tre anni, da quando ne aveva 27. Certo, però anche dal punto di vista così della continuità, ha giocato 18 partite su 20 con il Flamengo, qui non l'avevamo mai visto, quindi come lo ha gestito Allegri è stato sicuramente la scelta migliore. Sì. Però ancora una chance io gliela darei, tu credo di no, però siamo qui apposta io posso dirti che camminando come si fa nel campionato brasiliano, Ronaldinho può andare avanti come Rivaldo fino a 40, poi da questo all'essere di nuovo un top player a livello mondiale credo ci sia qualche passaggio di differenza. Massimo, ti ringrazio. Grazie a voi, alla prossima. Serata, presto. Grazie a presto. Massimo Calegari. Ciao. Volevo sentire un ultimo flash da Dario Ricci, ultimo per il momento, prima del GR su Italia-Francia di basket. Carlo, mancano 2 minuti e 55 alla fine del terzo quarto, siamo ancora avanti, 60-55, è arrivato proprio adesso il 19° punto di Andrea Bagnani con canestro e anche fallo, quindi adesso c'è il tiro libero, che vi racconto subito come va a finire, di solito Bagnani ha buone percentuali. La partita, stiamo soffrendo chiaramente perché la Francia non molla, intanto Bagnani segna 61-55, soffriamo le varie stelle dell'NBA targate Francia, Diop in particolare in questo quarto con 5 punti tra cui una tripla, un bel recupero, il peso sotto canestro di Noah, ma ci siamo sempre, soprattutto in questo periodo con Danilo Gallinari che ha dato un buon contributo, 6 punti e spesso è andato a sfidare proprio i lunghi francesi in attacco sotto canestro. Arriva adesso il canestro di Ghelabale, 61-57 per gli azzurri quando mancano 2 minuti e 27 alla fine del terzo periodo. E stiamo collegati, tanto abbiamo ancora un'ora per stare insieme, vi daremo il finale e i battiti di questa partita che vale l'Europeo per l'Italia. Io intanto ringrazio Giorgio Rondelli per la compagnia che mi ha fatto oggi nel corso dei mondiali, ci risentiamo presto Giorgio. Grazie a te Carlo. Grazie a Giorgio Rondelli. Maurizio da Roma, ci sentiamo all'inizio della prossima ora, perché sennò adesso avremo veramente 20 secondi per parlare, mi sembra limitante, no? Parli di Ronaldinho che torna in Brasile ed ecco spontanea regia Fabio Cantadori, milanista di ferro. Dunque, Italia 67, Francia 60 all'ultimo intervallo corto, quindi alla fine del terzo periodo di gioco. Un'Italia che incredibilmente succombe in maniera incredibile al rimbalzo, me ne dire così, 28 a 15 per i francesi, ma tiene in mano l'inerzia di questa partita. Oggi stiamo giocando bene, speriamo che di chiudere così e di tenere viva la fiamma europea. Maurizio da Roma, buongiorno. Ah, buongiorno dottor Genta, innanzitutto devo sottoscrivere quello che ha detto il suo collega collaboratore Cantatore, sono tifoso del Milan, Ronaldinho in Brasile a vita. Sì. Non ritorni più, per carità, allora, di Dio. Torna dove? In Brasile a passeggiare, in giardino? A passeggiare, quello che fa, quello sulle spiagge. L'importante è che non torni al Milan. Assolutamente, siamo stati stanchi di lui per tantissimo tempo. Quindi io voglio intervenire sulla polemica relativa a due aspetti che riguardano il Milan e poi in un certo qual modo anche Totti. Sì. Cioè, uno è qualche milanista, ho sentito il messaggio che il Milan mancava la mezzala e si è privata di Pirlo. Ma Pirlo aveva 32 anni, nel Milan dell'anno scorso non ha trovato spazio, e poi è giusto rinnovare ringiovanire la rosa, come ha fatto bene con Aquilani e Nocerino. Per quanto riguarda Inzaghi ha 38 anni, quindi la carta d'identità non si può nascondere. È continuo soggetto a continui infortuni, piuttosto sarebbe stato meglio inserire Sharawi, paradossalmente, sì, che è un giovane sperando che possa fare esperienze, ma sì, però Maurizio, però bisogna distinguere. No, sono d'accordo, questa continua riconoscenza può essere nociva, però voglio dire, se Inzaghi viene considerato un giocatore del Milan e non è lì a prendere l'ultimo anno di pensione, l'ultimo anno di stipendio per prendere la pensione, è il super goleador europeo. In partite come quelle europee servono anche giocatori che entrano e hanno la scintilla di Inzaghi. Se ci credi come giocatore, non inserire lui nella lista di Champions League è abbastanza bizzarra come scelta. O davvero lo considerano semplicemente un totem, un monumento da vetrina, ma magari è così, oppure se lo considerano ancora un giocatore, beh, non c'è palcoscenico più adatto di quello europeo per il super bomber d'Europa Pippo Inzaghi. Dunque mi è sembrata un po' bizzarra questa scelta, e sono certo che Inzaghi non va giù neanche col bicarbonato, ne sono sicuro. Ne parliamo se volete, grazie Maurizio. 800 24 00 24, numero verde. Si avvicinano anche i mondiali di rugby, di cui parleremo da domenica prossima, quando l'Italia affronterà la sfida impossibile contro l'Australia. Intanto ieri danze e sorrisi. Giacomo Bagnasco, buongiorno. Buongiorno Carlo, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Siamo ripartiti con questa stagione ed è cominciata la ex Celtic League, che quest'anno si chiama Pro 12, giustamente, sì, perché arrivando due squadre italiane l'identità celtica veniva meno. Sì. Il Benetton, che ha dato 12 giocatori alla nazionale, che quindi ha giocato senza 12 titolari, ha giocato in casa con gli irlandesi del Connacht, che alla nazionale irlandese giocatori ne hanno dati decisamente meno, e ha perso 11-9, primo tempo 8-3 per gli irlandesi, che hanno segnato l'unica meta della partita. Invece in corso ancora l'altra partita della seconda squadra italiana, gli Aironi, che stanno giocando in Galles a Clanecli con gli Scarlets, e al 40° del primo tempo erano in svantaggio 9-6, ma è chiaro che l'attenzione, sì, anche gli Aironi hanno dato 10 giocatori, sì, nazionale, è chiaro che l'attenzione in questo momento. Guarda, io Giacomo sono contrario al salto della quaglia sull'inizio del campionato, no? Campionato di calcio e poi sosta per la nazionale e poi ricampionato di calcio, non c'è stato complice lo sciopero. Nel rugby trovo addirittura assurdo cominciare un torneo quando ci sono i mondiali dietro l'angolo. Sappiamo che questa è un'abitudine, che in Inghilterra ad esempio i campionati non si fermano per le sei nazioni, ma mi sembra una scelta assolutamente bizzarra, perché francamente in questo momento con i mondiali dietro l'angolo della Celtic League importa forse in Italia ad amici e parenti dei giocatori e non molti altri, ho l'impressione. C'è da dire perché, un'altra cosa che purtroppo questa è anche una conseguenza dell'affollamento di un calendario probabilmente certo. legato a esigenze televisive che ha poco a che vedere con lo sport, sicuramente ha portato così degli svantaggi al calcio, ancora di più ne può portare al rugby, che è uno sport molto fisico e che quindi sì, sì. richiede tempi di recupero abbastanza lunghi, costringere giocatori a stagioni infinite, infilare una dopo l'altra tutte le competizioni, certo. perché poi ci sono anche le coppe europee. Su questo sono d'accordo, è assurdo anche che il Tri Nations con tutto quello che ne consegue, col valore che ha, sia finito 8 giorni fa con una Nuova Zelanda-Australia tirata al massimo fra due squadre che poi nel giro di 15 giorni devono affrontare. Devono rigenerarsi per i mondiali. Giacomo, ti ringrazio, avremo modo di parlare di rugby e soprattutto di mondiali a lungo. Intanto io torno al calcio salutando Luca Taidelli, collega inviato della Gazzetta dello Sport. Ciao Luca. Buongiorno a tutti. Buongiorno a te. Oggi ho sentito Ranocchia in conferenza stampa nazionale dire: siamo sorpresi anche noi del pasticcio Forlan, non se l'aspettavano neanche loro. È vero che l'ignoranza della legge si paga, non è una scusante, come sai bene, però questa mi sembra una distrazione grave. Ah, certamente, la si può rigirare come si vuole, è una distrazione grave per quanto riguarda l'Inter, non data dall'ignoranza del regolamento, è stata proprio una grave leggerezza nel non avere, tra virgolette, considerato che l'Atletico potesse aver fatto anche il terzo turno, si pensava che facesse direttamente il playoff tipo Roma, Lazio, e erano giorni in effetti abbastanza caldi per l'Inter che organizzava la trasferta a Dublino e poi in Cina per la Supercoppa, però l'errore rimane e l'Inter stessa non cerca di girare intorno al problema, anche perché se al tempo non avevi Forlan nel mirino, una volta che entra nel mirino non puoi scannerizzare la sua posizione e scoprire certo. a babbo morto che non lo puoi utilizzare. Sì, posso dire il regolamento abbastanza idiota? Sì, in quel senso ce ne sono tanti, ma è lì e lo si conosce, è sicuramente abbastanza idiota. Regolamento stupido, ma l'ignoranza non è una scusante, come sappiamo bene, non è una scusante nemmeno una difesa dell'Inter che è un colabrodo. Mi sembra il problema più serio, forse attualmente anche più del mancato visto per Forlan. Questo oggi sentivo sempre Ranocchia parlare di una difesa nazionale che non prende gol, vabbè, ha avuto gli avversari che ha avuto da un'infinità di tempo, poi gioca nell'Inter il povero Ranocchia, prende 3 gol da Chievo anche nell'ultima amichevole. Secondo te è un problema risolvibile in tempi brevi o rischia di diventare un difetto strutturale? Ma non credo difetto strutturale, potrebbe essere legato a tante cose, credo sia anche sbagliato fissarsi solo sul fatto che l'Inter stia giocando a 3, perché non era mai successa negli anni precedenti, è un problema di fase difensiva generale, di centrocampo che non aiuta, di meccanismi alla fine anche della difesa che vanno portati a memoria, ed è stato difficile farlo per tanti motivi. Io Gasperini riconosco il merito di aver portato avanti le sue idee pur tra mille difficoltà, l'Inter è stata un cantiere aperto fino al 31 agosto con l'arrivo di Zárate, e quando bene ha avuto la rosa definitiva se l'è vista sparpagliata per il mondo con le nazionali. Avrà un avvio da brividi, nel senso che le prime due di campionato dicono Palermo in Sicilia e poi Roma in casa. Sarebbe importante per l'Inter fare il risultato per trovare quella tranquillità che poi ti permetta di portare avanti certe idee. Del resto, essendo la squadra abituatissima a giocare a 4, io ripeto, apprezzo che Gasperini insista col sistema meno conosciuto, sapendo che poi nel caso, avendo subito anche sì. qualche pressione indiretta dalla stessa dirigenza, ripiegherà su quella a 4, ma se non ci provi adesso non ci provi più, se sì. credi in quel sistema di gioco. Io l'ho già scritto, per me Gasperini degli ultimi allenatori dell'Inter è quello che capisce di calcio più di tutti, senza voler offendere nessuno. Poi meno generale, allenare l'Inter significhi saperne di calcio oppure essere un uomo, un manager o un grande motivatore come era Mourinho. Ma io a Mourinho mi ricordo che spesso venivano fatte delle domande tecnico-tattiche e lui incominciava a attaccare l'arbitro, il sistema, andava in crociata. Quindi Gasperini lo difenderei, è importante che lo difenda anche la società. Noto comunque che pochi allenatori italiani amano parlare di tattica, non solo Mourinho. Cioè, è difficile fare discorsi tattici seri con gli allenatori. Non so se perché ci snobbano e magari sì, qualche forse non ritengo, interlocutore all'altezza. Io sono rimasto folgorato a Pechino quando da una minima domanda Gasperini ci ha fatto due lezioni tipo Coverciano con una risposta sola e si capì adesso non è tutto lì, ma per esempio anche in Supercoppa per un tempo con tutti i problemi che aveva la squadra tra rinunce e altro ha impacchettato il Milan che è una squadra strarodata. Gli darei un po' di fiducia pur sapendo che sei l'Inter diventa difficile prescindere dai risultati, però la differenza forse col Milan al di là di Rosa è tutto proprio quella, sì. Nel senso che il Milan può pigliare un Allegri che anche lui tra virgolette è un parvenu come l'anno scorso, gli copre le spalle e lui può permettersi di perdere a Cesena e poi va a vincere uno scudetto. Nessuno mi toglie dalla testa l'assioma secondo cui a fare grandi gli allenatori sono le grandi società. Di questo io resterò convinto finché campo. Luca, ti ringrazio, ti abbraccio, grazie. Alla prossima. Ciao. Grazie a Luca Taidelli della Gazzetta dello Sport. Ci fermiamo per il traffico e poi facciamo di nuovo un flash con gli europei di basket per Italia-Francia. Tra i miei ascoltatori c'è chi è sicuro che Gasperini non mangerà il panettone, lo scrive via SMS 349-238-6666. 800240024 invece per far sentire la vostra voce. Adesso però voglio sentire quella di Dario Ricci di voce perché sta guardando Italia-Francia. Come va? -2,23 alla sirena, Carlo. Siamo sotto di un punto, 79-78, ma in questo momento segna Gallinari e quindi avanti 80-79 ed anche tiro libero. Stiamo soffrendo da matti, soprattutto le seconde linee dei francesi. Chicambeau, Gelabale, Pietrus, che hanno siglato il parziale nel quarto periodo, che ricordiamo era iniziato col 67-60 per gli azzurri, la rimonta francese siglata proprio dalle seconde linee. Sotto canestro continuiamo a soffrire il peso di Traoré e Dio, ma restiamo attaccati lì, restiamo attaccati alla partita grazie all'intensità di Gallinari, alla voglia di esserci, anche ai canestri di Bellinelli, 19 punti per lui, 4 importantissimi finora in questo parziale, ma arriva anche un prezioso contributo da Hackett, dalla sua difesa, da un paio di tiri liberi, un altro canestro, anche se pochi istanti fa una sanguinosa palla persa aveva ridato l'occasione alla Francia di allungare. Per fortuna Batum, che tanto costruisce quanto distrugge, ha sprecato con un'infrazione di passi. 80-79 per l'Italia, Gallinari adesso fra pochissimo, adesso c'è un time out, fra pochissimo sulla linea dei tiri liberi, 2-23 alla fine, ci siamo Carlo, ci in questa partita da dentro. Stiamo per il finale ed è davvero una di quelle partite che possono cambiarti la vita emotivamente, cioè che possono davvero essere un mattone importantissimo per la costruzione di questa nazionale che è ancora lontana dall'essere quella che vogliamo, però può essere davvero la partita chiave. Paolo, provincia di Arezzo, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Sì, volevo farle una domanda riguardo alla Roma, una sua opinione personale riguardo a questo allenatore che nel precampionato... Diciamo, io ho visto, sono tifoso della Roma, però ho visto la Roma e nonostante ora nuovi inserimenti. Però una da Roma che parte sta Paolo? Pro o contro? Dalla io parte sono... Totti naturalmente. Io sono pro Totti, anche se però sono dalla parte del rinnovamento, però penso che per la storia della Roma un giocatore come Totti non si discuta. Diciamo. Si può rinnovare con Totti? Io penso di sì, anche con i nuovi acquisti soprattutto di Lamela e Bojan Kerkic, sono dei giovani promettenti accanto a un giocatore di esperienza come Totti, penso che la Roma possa fare un bel campionato, però tutto sta nell'allenatore e che non si creino in dispute anche con il nuovo allenatore. Io da parte mia avrei visto più un Ancelotti sulla panchina con questa nuova Roma. Sì, anch'io, però Ancelotti costava molto più di Luis Enrique, per buttarla in denaro, no? Purtroppo si è tutta una questione economica, anche se però io sono a favore di questa nuova Roma a livello giovanile, però penso che ci sarebbe voluto un allenatore di esperienza, ma Ancelotti per un progetto, e tanto questo ha detto anche Richard Di Benedetto, è un progetto a lungo termine, e avrei visto più un allenatore come Ancelotti, anche se poi sicuramente poi mi sbaglierò, sarà il nuovo Guardiola Luis Enrique, però io non lo so, per il momento insomma è un allenatore che ha fatto molto bene a casa sua con il Barcellona B, è un allenatore che non ha grandissima esperienza nemmeno nella gestione di superstar come Francesco Totti, ma io più della querella tra Totti e Luis Enrique sono sorpreso dell'atteggiamento della società, perché mi sembra davvero questa la chiave di volta delle parole che poi torneremo a sentire di Sabatini quando torniamo poi sull'argomento. Insomma, Luis Enrique mi sembra anche discretamente presuntuoso, quindi è chiaro che se la società gli ha dato ampio mandato di esplorare ogni possibile via per mettere in pratica il suo credo calcistico, allora questo è un altro discorso, ed è altrettanto evidente che in questo credo calcistico magari Totti con i suoi limiti fisici, con il suo peso nei confronti della squadra, dello spogliatoio, della tifoseria, eccetera eccetera, può non rientrare. Quindi mi sembra una querella piuttosto interessante. Io però saluto e ringrazio Vincenzo Morabito, agente FIFA e procuratore di alto livello. Ciao Vincenzo, grazie. Ciao, buonasera a voi. Posso farti entrare subito in questo discorso relativo a Totti per capire qual è il tuo pensiero? Ma guarda, io ho sentito solamente le ultime parole e comunque trovavo interessante proprio quello che dicevi appunto sul Luis Enrique, è molto presuntuoso, e la società che ha dato fiducia a Luis Enrique per portare avanti il progetto. Io credo che ci sia un errore fondamentale di base, perché quando tu parli magari di allenatori tipo Capello, Mourinho, Ancelotti, cioè quegli allenatori che hanno vinto tanto, quindi che hanno dimostrato di fare grandi risultati, allora sì che una società può dare carta bianca e dire va bene, tu vai avanti col progetto. Ma qui stiamo parlando di un allenatore giovane, totalmente sconosciuto, che ha allenato il Barcellona B. Oltretutto io ho sempre pensato, sin dall'inizio, se veramente la Roma vuole fare qualcosa di nuovo, cioè, quindi magari giustamente affidarsi a un allenatore che poteva essere emergente, ma valeva la pena andare a pescare in Spagna, poteva, che non so, magari affidarsi allo stesso Montella o addirittura ad Alberto De Rossi, che è praticamente il corrispettivo di Luis Enrique in Italia. Certo, questo sì. Vincenzo, in questo mercato abbiamo visto pochissimi movimenti, ma forse perché non siamo più in grado di scalare la montagna del mercato ad alto fino alle vette più alte. Abbiamo visto qualche ridicolaggine come la vicenda Forlan e il caso Ziegler, onestamente, lasciamelo dire. Guarda, io ho visto tanta confusione, un mercato sicuramente povero, perché le società adesso hanno meno mezzi economici, e anche chi una volta, vedi Berlusconi, vedi Moratti, spendeva tanto, adesso non vuole più spendere, però tante volte anche quando mancano i soldi si può operare bene con delle strategie, con dei programmi. Qui sono mancati i soldi e sono mancati anche le idee e i programmi, perché si è andati avanti così con grande confusione. Io ho trovato abbastanza confusionario il mercato della Juve, quello della Roma, l'Inter che insomma si è arresa di fronte al caso Eto'o, e poi però si è fatta trovare in preparare. Direi che le uniche che veramente hanno operato bene sul mercato, secondo me, sono Milan, Napoli e Lazio. Lazio? Sì. Tra Lotito e Reia ha vinto l'allenatore, questo non me l'aspettavo, sul caso Zárate. Ma ha vinto l'allenatore perché l'allenatore partiva da un quarto posto dell'anno scorso, perché era arrivata a quarta pari punti con l'Udinese, ha deciso di rinforzare l'attacco, che in realtà era stato un po' la nota dolente. L'anno scorso non c'è stato un giocatore, mi pare, che abbia fatto 10 gol, è stato Hernanes, un centrocampista che ha fatto cifra tonda. Quindi a questo punto ha portato a casa Klose e Sissé, due giocatori, è vero, diciamo sui 30, però anche due grandissime sicurezze. E il sacrificato è stato Zárate, che l'anno scorso evidentemente è stato molto deludente. L'Inter ha fatto bene a prenderlo? A prenderlo? Sì. Ma non lo so, lo dirà il campo. Io poi sono del parere che noi possiamo fare tanta teoria, poi alla fine sarà il campo di Lo. Secondo me Paratia è un grande talento, però come tanti grandi talenti fa un po' fatica, perché dopo bisogna o hai veramente una grande professionalità, una grande applicazione tipo Messi e Cristiano Ronaldo, o se no il grande talento oggi è un po'. Rischia di essere fino a se stesso. Vincenzo, ti ringrazio molto, purtroppo la comunicazione è un po' disturbata, però abbiamo aperto altri fronti di discussione interessanti. 800 24 00 24. Tornerei da Dario Ricci, perché siamo alle ultime battute di Italia-Francia. Sì, e probabilmente, Carlo, anche le ultime del nostro europeo, perché mancano 22 secondi. Italia sotto di 3 punti, 82-85, a 1.35 eravamo ancora avanti di 1, Gallinari segna un solo tiro libero, poi però è Dio a farci male, prima dalla lunetta con 2 su 2 ai liberi e poi con un recupero difensivo su Bargnani. E un altro canestro in attacco, adesso quinto fallo di Mancinelli, in lunetta Batum, che finora non ha mai fallito al tiro libero, 86-82, 7 su 7 per l'ala di Portland, che sigla ora il suo 20° punto, 87-82 per la Francia. Peccato, perché nel momento decisivo ci hanno un po' tradito i nostri campioni dell'NBA, i Bargnani con un pallone perso in attacco e una tripla sbagliata, e Bellinelli, che ha avuto pochi istanti fa la palla buona per riaprire quantomeno la volata finale, la sua penetrazione però si è spenta sul ferro. Ora time out da parte di Simone Pianigiani, mancano 22 secondi, Francia avanti di 5, 87-82. Mi sa che è finito il nostro europeo in questa sconfitta con la Francia, avremo un'ultima tristissima partita contro Israele, inutile. Peccato. Giovanni, provincia di Catanzaro, buongiorno. Buongiorno a lei. Dica. Allora, la mia domanda era questa: che cosa ne pensa lei dell'esclusione della lista di Champions League di Pippo Inzaghi? E con questa scelta lei, che si dimostra di essere, dopo le varie esclusioni dell'anno scorso di Pirlo, di Ronaldinho, di essere ancora lui il vero leader della squadra, al di là dei vari giocatori e degli schemi, quindi si dimostra un allenatore con un'estrema personalità, vista anche la sua giovane età e quello che è riuscito Giovanni a fare. È un allenatore molto bravo, molto intelligente, che ha delle idee magari anche semplici ma molto chiare, ed è un allenatore supportato al 100% dalla società, e questo è il segreto di tutto. Quindi a me sorprende, torno a ripetere quello che ho detto prima, mi sorprende l'esclusione di un giocatore come Inzaghi dalla lista di Champions League, perché se ci credi ancora come giocatore, non solo come totem, come porta fortuna, come amuleto, beh, in Champions League uno come Inzaghi te lo porti, evidentemente insomma è un ultimo giro per lui, con la maglia del Milan è un ultimo giro di campo, grosso modo per riconoscenza, perché altrimenti nel suo territorio di caccia prediletto lo porti in ogni caso, poi magari non lo usi o non ti servirà eccetera, però è evidente che Inzaghi non... Che al Milan in questo momento non considerano Inzaghi un giocatore comunque importante, perché altrimenti questa scelta non l'avrebbero fatta. Allegri ha tutto il potere che serve per gestire questa squadra, l'ha fatto l'anno scorso quando il potere ne aveva molto meno, con grande scaltrezza se vogliamo, e torniamo qui alla vicenda di Ronaldinho, con grande flessibilità, e anche questo è un suo grande merito, perché non è arrivato lì come in parte un po' sta facendo Conte, cercando di imporre a tutti i costi le sue idee, facendoci costruire la squadra adatta al suo calcio. Ha adattato invece le sue idee alla squadra che aveva, e con il supporto della società ha fatto nient'altro che vincere lo scudetto, e quest'anno parte in pole position in maniera molto più evidente di quanto non fosse lo scorso anno. Luigi, provincia di Varese, poi ci fermiamo. Luigi, provincia di Varese, è caduto, lo recuperiamo dopo. 800 24 00 24, numero verde. Non so se è ancora in linea invece Dario Ricci. Sì, Carlo. È finita? Eccoci qua, proprio sulla sirena finale, finisce 91-84 per la Francia. L'ultimo canestro azzurro di Hackett, la firma sulla vittoria francese è arrivata ancora una volta da Boris Diaw dalla lunetta, e poi la schiacciata finale di Pietrus, un dato su tutti, il dominio francese al rimbalzo, ma anche il fatto che nel quarto periodo i transalpini hanno cominciato a segnare quelle triple che fino a quel punto erano mancate, sono entrati nel periodo con un 1 su 7, chiudono invece con il 4 su 10 che vale il 40% e che sì, probabilmente è anche il dato, uno dei dati che segna questo questa vittoria. Per quanto riguarda l'Italia, Carlo, bisogna dire che quantomeno Pianigiani ha trovato il gruppo, ha trovato la voglia di lottare fino all'ultimo pallone, quello che forse era mancato anche nelle sconfitte iniziali, no? Non ci sono stati quei blackout che avevano contraddistinto quelle due sconfitte, ma purtroppo non è bastato. Beh, è anche vero che abbiamo preso 31 punti nell'ultimo quarto, siamo entrati negli ultimi 10 minuti in vantaggio 67-60, è finita 91-84 e così è finito il nostro campionato europeo. Allora Totti non è un problema, Totti è un privilegio per chi ce l'ha, grandissimo, incommensurabile, e lui non si può prestare a questo gioco, cioè non può fare in modo o lasciare, perché non è lui l'artefice di questa cosa, perché lui soffre in silenzio come tutti gli altri, anzi più degli altri. Però non può lasciare che si dica c'è il problema Totti, lo deve risolvere lui, andando incontro all'allenatore, andando incontro a quelle che sono le esigenze del momento, facendo un grande sacrificio, perché lo so perfettamente che per un giocatore come Totti non giocare o essere sostituito è un grande sacrificio, ma a questo punto nella sua vita sportiva ci si aspetta qualcosa di più, qualcosa di speciale, e deve essere lui il conduttore della vicenda e deve fare in modo che Luis Enrique possa esprimere le sue qualità, perché ne ha moltissime, lui e il suo staff, che possa farlo fino in fondo, svincolandolo da tutta una serie di considerazioni che vengono fatte in ossequio a un problema di lesa maestà. Totti è un grande campione della Roma, non è stato, è, continuerà a esserlo, lo deve fare adottando magari criteri un pochino diversi. Questa è una richiesta che gli faccio, l'ho anche avvertito che avrei parlato di lui, ma non sopporto che si vada passivamente verso la rovina, oppure non sarò lì a ascoltare l'orchestrina del Titanic che affonda, perché vi dico fin da ora che sarà un grande problema per la Roma. Direttore Paolo Liguori, buongiorno. Buongiorno. Ma come, Totti non era la luce sui tetti di Roma? Totti la luce sui tetti di Roma, però quando piove anche la luce si offusca, purtroppo gli stanno facendo piovere in testa. Qui però io voglio uscire dalla questione Totti, perché io adesso dico francamente, su Totti non ho da aggiungere neppure una parola per quelle che sono state dette, perché è una cosa, cioè, è una cosa al di là dell'immaginazione pensare che la Roma abbia un problema con Totti. Quella è stata una fortuna per la Roma avere Totti. Non è il problema il suo contratto fino al 2014. No, te lo dico io qual è il problema della Roma. Io prima di tutto la settimana scorsa ho cercato di spiegare che Luis Enrique da furbo e anche messo alle strette ha tentato di forzare la questione Totti perché voleva ricattare la società per farsi comprare un sacco di giocatori. Aveva ragione, perché gliel'avevano promessi, non arrivava nessuno, insomma questa sceneggiata gli è servita a prendere un sacco di giocatori nuovi e ora penso che sia soddisfatto. Però il vero problema della Roma, io sono da tanti anni tifoso della Roma, dura da molti anni ormai, purtroppo da troppi anni, è questo ballo in maschera assurdo. Allora, che cosa intendo con ballo in maschera? Intendo che chi comanda, chi ha la proprietà non ci mette la faccia, e chi ci mette la faccia non ha la proprietà. Ve lo rendo, non l'ho letto da nessuna parte, mi sembra una novità, se qualcuno vuole la analizza, parlo senza peli sulla lingua. Totti, Luis Enrique e Sabatini sono tre persone che ci mettono la faccia a diversi livelli e vengono dopo Totti, sempre lui, Spalletti, Ranieri, che ci mettevano la faccia e non si vedeva più la proprietà. Allora noi qui abbiamo il proprietario americano che arriva uno ma ne rappresenta altri. Sì. Abbiamo Baldini, direttore generale, che non sappiamo dov'è. Sì. Che fa, che comanda lui, ma comanda dall'Inghilterra. Sì. Abbiamo tutte figure ombra, Unicredit che ci sta, non ci sta, e socio di minoranza. Questo c'era anche prima con la proprietà Sensi, che non ci metteva la faccia. Spalletti se n'è andato per questo e l'ha detto, siccome sono state ripetute le denunce qui, Totti ha messo la faccia al posto della proprietà molte volte, anche perfino con i soldi suoi quando si trattava di investire sulla Roma. Allora qui è inutile che continuiamo a fare finta, fare questa sceneggiata di un litigio tra tutti quelli che ci mettono la faccia ma non sono quelli che danno gli ordini. Sì. Vorrei che uscissero fuori sul palcoscenico quelli che ci mettono la faccia. C'è una proprietà, parli la proprietà. Se Baldini dispone, lancia il messaggio in un'intervista dall'Inghilterra e poi non si fa più sentire e apre un caso Totti, deve stare qui a Trigoria a chiuderlo, a Roma se comanda lui. Sono se d'accordo. No, non può comandare lui. Allora, d'accordo. Io mi sono stufato di parlare di quelli che sono in prima fila e li vediamo. Vediamo Luis Enrique, per me è un bravissimo allenatore, bisogna dargli il tempo di dimostrare. Poi il problema è che ci metti i soldi oltre la faccia. Vediamo Totti da 10 anni, da 20 anni, è sempre lui, si dice ci sono gli interessi, ci sono gli interessi di Totti e ci sono gli interessi della Roma, ma da 20 anni coincidono e mi devono ancora dimostrare che non coincidono. Chi ha segnato più di tutti della Roma l'anno scorso? Totti. E allora, signori, Luis Enrique c'è, Totti c'è, Sabatini è nuovo, ma c'è, ci ha messo la faccia, gli hanno detto trova i giocatori, ha trovato i giocatori, aveva molte difficoltà, ha fatto il suo dovere. Io di questi tre non vorrei parlare, io li darei come acquisiti tutti e tre e penso che siano tutti e tre patrimonio della Roma. E allora Di Benedetto, adesso, mi pare di che Benedetto direttore è venuto, ha parlato, però Di Benedetto si legge Di Benedetto e si dice però che dietro sono tanti Pallotta eccetera eccetera. Pallotta, no? Allora Di Benedetto parla per altri 4 mascherati, l'Unicredito manda la 1 per non si sa che cosa, e poi soprattutto Baldini, ma si è mai visto che in una situazione come quella della Roma c'è il direttore generale plenipotenziario che dice chi si compra e chi non si compra, che leggiamo sui giornali che Gago l'ha fatto prendere lui contumace. Contumace. Allora noi abbiamo, e questo ce l'avevamo anche prima di questa proprietà, anche con i Sensi era così. Io vorrei ricordarvi e vorrei farvi rileggere precisamente le motivazioni con cui Spalletti è arrivato alle dimissioni. Spalletti, sto dicendo, il miglior allenatore che abbiamo avuto a Roma negli ultimi 10 anni. Sto dicendo uno che con questo organico, se gli avessero dato questo organico che io vedo sulla carta, quest'anno le altre stavano molti punti distanti. Sì. E Luis Enrique come lo metti? Pensate, Luciano Spalletti col 4-2-3-1 con questo organico. Figuriamoci se si metteva lì a piangere. Secondo me Luis Enrique lo vedo come un bravissimo allenatore, una grande potenzialità. Io non sono pro Totti contro Luis Enrique, io vorrei tenermi Totti, Luis Enrique e Sabatini, tutti e tre, perché li considero tre valori aggiunti della Roma, però che venissero fuori quelli che devono venire fuori, che prendessero le responsabilità quelli che devono prendere le responsabilità. Sì, sì, è chiaro, questo è chiaro. E poi si può lanciare un missile terra-aria da Londra attraverso un giornale e scomparire, e che si può fare una conferenza stampa, poi non si sa se investi, non investi, quanto investi. Fino al 18 agosto siamo stati là a vedere quanti soldini metteva uno, quanti soldini metteva l'altro, e stiamo ancora a parlare di Totti. Il problema della Roma non è Totti, non è Luis Enrique e non è Sabatini, quelle sono opportunità. I problemi della Roma c'erano, ci sono, e ora mi sono un po', come dire, seccato di questa occulta, questa fase mascherata, questo ballo in maschera. Sì, grazie direttore, ti ringrazio. Grande, grande chiave di lettura questa, che ci mettano la faccia quelli che comandano, sono deputati a comandare, che sia Baldini, che è plenipotenziario di Benedetto, che pure deve metterci la faccia, che pure oggi è finito sul Times, peraltro. Sul Times è stata ripresa la volontà di Benedetto di costruire uno stadio nuovo a Roma, non nuovo e non inedito. Al Times hanno detto: a Roma vediamo se riesce a farlo. Se in una realtà come quella romana riesce a costruire lo stadio, allora diventa immortale. Questo sta scritto sul New York Times. Sul Corriere della Sera, invece, Giovanni Bianconi scrive: Roma, tra le altre cose, in questo articolo, Totti amore e ossessione per il campione di più. Allora, Roma è una città meravigliosa con una tradizione come nessun'altra, carica di bellezze e difetti, che a volte può sembrare inadatta al ruolo attribuitole dalla storia, ma capace di riprendersi di fronte ad ogni avversità, mostrando sempre il suo lato migliore, di trasformare le proprie inadeguatezze in un di più che la rende unica. È dunque capitale. Sostituite la parola capitale con capitano, poi capitano con Totti, e avrete la spiegazione di come un territorio e il suo popolo possono immedesimarsi in un giocatore di pallone. È vero che ci devono mettere la faccia quelli che comandano, a cominciare da Baldini, che a cui è stato affidato tutto questo potere in contumacia, ma è anche vero, secondo me, che non so se, come dice il direttore Liguori, per bieche ragioni di mercato, per dimostrare l'inadeguatezza della Roma, Luis Enrique ha montato tutto questo casino. Certo è che nessuno della società Roma, e Sabatini è un uomo della società Roma, aveva preso questa posizione nei confronti del capitano. Non so quanto profonda sia spaccatura, né se sia sanabile. Stefano da Roma, Luigi provincia di Varese. Partiamo da Luigi, che era già prenotato prima, poi era caduto. Dica Luigi. Eccomi qua, grazie. Eccolo, dell'ospitalità. Grazie a lei. Dica. Una domanda. Adesso tutti dicono che mancano i progetti, no? Io da ignorante faccio fatica a capire cosa sono i progetti. Ma di chi? Della società di calcio, per esempio. Parlando di Juve, per esempio, sì. No? Noi per anni, gli ultimi anni, ci siamo sempre detti manca il cervello arretrato, no? Della squadra. Adesso è stato comprato Pirlo. Sì. Il cervello, ma è stato cambiato tutto il resto. È stato cambiato tutto il resto. A questo punto cosa significa progetto? Ecco, magari lei che è più esperto. Ma no, Luigi, qualche... semplicemente il progetto lo fa una società che con le idee chiare, con direttori sportivi con le idee chiare, con un allenatore in cui si crede profondamente. Quanti allenatori ha cambiato la Juventus negli ultimi tre anni? Ma cosa c'è di sbagliato nella Juve attualmente, secondo lei? Nella Juve attualmente non possiamo dirlo perché siamo all'alba della stagione. A me la Juve piace anche per così come è stata disegnata. Io continuo a dire che... No, io continuo ad avere delle perplessità su chi la guida, cioè su Antonio Conte, che mi sembra un po' troppo integralista per le esigenze della Juventus. A mio parere poteva servire di più per la costruzione di un progetto, come lei dice, un allenatore che fosse abituato a costruzioni di alto livello e a gestire realtà di alto livello, piazze importanti, piazze arrabbiate, piazze frustrate come quella juventina. Cioè, avrei visto in quel ruolo e su quella panchina in questa stagione, non sto discutendo nemmeno il valore assoluto di Conte, che ancora non conosciamo onestamente, perché comunque è un allenatore all'inizio della carriera. Secondo me sarebbe stato più funzionale un allenatore di maggiore carisma, di maggiore esperienza, un allenatore che sapesse, che conoscesse bene la strada per arrivare ad un successo che la Juventus non può più rimandare. Insomma, è chiaro che non costruisci tutto da un giorno all'altro, però il problema vero è che la Juventus ha fatto pochissimi passi in avanti negli ultimi anni e ne ha fatti invece molti all'indietro, quindi è proprio questo il progetto che stenta a decollare. È chiaro che se ogni volta radi al suolo la casa che hai fatto l'anno prima e cerchi di crearne una nuova, è difficile arrivare al tetto. Altro ascoltatore in linea, 800 24 00 24, ultimi 10 minuti per noi e poi da domenica prossima, ve lo ricordo, dalle 16.30 alle 19 con il campionato, se Dio vuole. Davide da Roma, buongiorno. Buongiorno a lei e grazie molto dell'ospitalità. E se vuole anche l'asso calciatori, che domani firmerà il contratto, e non solo l'altissimo. Dica. Allora, grazie per l'ospitalità. Senta, la chiamavo a proposito di quello che oggi sono diventati, secondo il mio modesto avviso, gli organi di stampa, no? E la Repubblica in generale, che non leggo mai, ma non per pregiudizio, perché non ho altre passioni, ma l'ho comprato quando è uscita l'intervista famosa con il nostro direttore generale, di Luis Baldini, ok? Sì. Io non ho trovato nei concetti nessuna di quelli che erano stati poi invece riportati da altri giornali nei confronti di, cioè, è stato usurpato il termine pigrizia, sì, relativo ai comportamenti di Francesco Totti, quando invece il termine pigrizia era stato usato affinché lui ci tenesse un po' di più nel non far parlare troppo di lui, nel non far usare il suo nome a Roma, un po' da tutti, da chiunque, e nell'essere un po' più presente in quanto potesse affermare le sue personali idee e non farla affermare, sì, da Zecca Carbone. Però Davide, vedi, in un contraddittorio, insomma, se uno dice una cosa, si scatena un discreto polverone intorno, sì, a quelle affermazioni, se poi non le ha dette ed è uno che è lì tutti i giorni, prende un microfono e lo spiega alla gente. Però vale il discorso che ha fatto prima Paolo Liguori, di Baldini, che dirige la Roma, che è quello che nella Roma oggi ha più poteri e che è contumace, cioè che fa un altro mestiere e sta da un'altra parte, no? E quindi adesso c'è questa grana di Totti e se la sbucino lo stesso Totti, Luis Enrique, e non so, ripeto, quanto la frattura sia profonda e quanto sia sanabile, e Sabatini, che per io credo su mandato, per bocca della società, perché non credo siano idee sue, no? Ha preso ieri una posizione molto chiara e molto forte nei confronti di Totti, cosa assolutamente inedita. Dica. È soltanto la sensazione mia che Sabatini abbia detto che 80-90% dei problemi relativi a Totti nascono da chi gli è intorno e non sono creati da lui. Sì, ma mi sembra un filo comune quello che ha detto Baldini, sì, in sostanza. Però Davide, lei sa meglio di me che come sta scritto, ad esempio, prima ho citato Giovanni Bianconi su Corriere della Sera di oggi, Totti non è semplicemente un giocatore, è un simbolo di una squadra, è un simbolo di una città, E dunque non possiamo dire sono problemi minimi o minuscoli, eccetera, eccetera. Sappiamo bene quale sia il peso di Totti all'interno della Roma, quale sia stato, quale sia attualmente, il peso di Totti presso la tifoseria. Dunque non è semplicemente la questione di un giocatore di calcio fortissimo in là con gli anni che si scazza con un allenatore, perché non è così, e lei lo sa bene. Lascio spazio agli altri ascoltatori. Sì. Io volevo soltanto sottolineare l'attenzione sul fatto che dal termine pigro, saluto a Baldini, a quello che ha detto Sabatini, secondo me sono stati portati dei concetti che sono stravolti rispetto alla volontà degli stessi protagonisti, perché il termine pigro legato a un atleta è che a lei se non viene subito in mente uno che si allena male o poco, piuttosto che un svogliato, piuttosto che... Quando il termine pigro era soltanto relativo al fatto comunicativo di una sua presenza più massiccia nell'affermare o meno concetti che spesso gli vengono attribuiti o atteggiamenti. No, lo so Davide, però insomma in un caso come questo diventa anche difficile fare l'analisi logica del periodo, insomma. Perché sappiamo bene quali siano le posizioni, e sono posizioni che vanno ben al di là di un aggettivo. Dunque, in questo momento alla Roma c'è questo caso Totti da gestire. Io non lo so se ma anche questo è un sospetto che mi viene: se questo contratto molto pesante sottoscritto lasciato in eredità dalla proprietà precedente, Totti ha un contratto fino al 2014 con molti soldi, è un'estensione del contratto fino al 2019 come dirigente sottoscritto dalla precedente proprietà, e come dirigente che però va a carico della nuova proprietà. Non so se dietro tale questione ci siano anche ragionamenti di questo tipo, ma non mi sorprenderebbe che fosse così. Poi non possiamo dire che tutto ruota intorno a un aggettivo mai confermato di pigro, eccetera, eccetera, perché sappiamo bene come la vicenda vada al di là dell'analisi logica delle singole dichiarazioni. È una questione da risolvere. Sappiamo quale sia il peso di Totti presso l'opinione pubblica romana, presso la tifoseria romana, e Luis Enrique indubbiamente dal punto di vista dell'opinione pubblica romana e del tifo romano in questo momento ha una spada di Damocle sulla testa. Tornerei alla cronaca che diventa commento ora dell'esclusione dell'Italia del basket dagli europei. La notizia è calda, così come 91-84 scritto sul tabellone lituano che ci condanna all'esclusione dagli europei e dall'Olimpiade. Jerry De Rosa, buongiorno. Ciao Carlo, buongiorno a tutti. Sei deluso? Beh sì, per il fatto che siamo fuori senz'altro, non certo per la partita di oggi, no. Come si dice spesso in casi del genere, non l'abbiamo persa oggi, sicuramente, insomma, l'abbiamo persa, però resta la delusione, senz'altro, anche forse anche addirittura accresciuta la prestazione di oggi, perché l'Italia è una squadra in chiara crescita, però ormai manca una partita che non conta niente, quindi insomma l'anno prossimo si ricomincia da capo con le qualificazioni agli europei, mentre alcuni altri e pochi per la verità vanno all'Olimpiade. Sì, è un lavoro, Jerry, che è cominciato un anno fa e senza Gallinari, no? Non senza le tre star NBA, però è un lavoro cominciato un anno fa. In un anno lavorando come può fare un commissario tecnico non si costruisce una squadra, quindi siamo sempre nel campo delle attenuanti. Possiamo anche dire che l'Italia non ha giocato una buona pallacanestro in questo europeo. Non so se fosse legittimo, lecito pretendere di più, o se la presenza dei tre americani fosse fumo in occhi molto speranzosi. Ma guarda, il fatto che ci fossero tutte e tre per la prima volta ovviamente ha illuso molti. È chiaro che sono giocatori difficilissimi da mettere insieme. Io, se fossi un general manager e potessi fare i miei sogni, li metterei assieme, non li prenderei per una squadra di club, diciamo, perché è difficile farli giocare assieme. Sono tre prime punte, tre giocatori che hanno bisogno del pallone in mano. Al momento nessuno dei tre è un leader. Evidentemente è una squadra che più che mai, vista la presenza di questi tre, avrebbe bisogno di un playmaker di alto livello, che non c'è, nonostante Daniel Hackett abbia fatto insomma un ottimo europeo al di sopra delle sue potenzialità, al di sopra secondo me anche delle aspettative. Però è un giocatore che deve crescere proprio a livello di playmaking, giocando diverse partite contro avversari forti e non solo nel campionato italiano. È chiaro che la squadra avrebbe bisogno di tempo, ma per le nazionali tempo non ce n'è. In più, questi tre giocatori sono giocatori che fanno più o meno una stagione situazione di amichevoli in NBA, sì, perché il livello che si tocca, l'intensità che si tocca l'europeo, non l'hanno mai conosciuto, insomma, sì, sono Bargnani e Bellinelli all'inizio della loro carriera. Hai avuto l'impressione che fossero anche una specie di paravento per gli altri, cioè che l'atteggiamento fosse quello di dire: beh, le stelle sono loro, chiedete a loro i canestri, chiedete a loro di essere leader nei momenti decisivi, chiedete loro e poi noi veniamo dopo da parte degli altri. Fino ad oggi sì, senz'altro, e credo che sia anche umano, insomma, perché se io sono come compagni questi tre e prendo un tiro ma lo sbaglio, mi sento ancora peggio, insomma, perché forse è caso che lo prendo altri tre. La crescita di oggi invece si è vista anche in questo senso, perché tutti gli altri hanno preso delle grandi responsabilità, tutti hanno segnato, tutti hanno giocato, finalmente i palloni importanti li abbiamo giocati da squadra. Secondo me il nostro europeo è finito sulla trovata da Bargnani, con un metro di spazio, però finalmente la tripla costruita dopo una serie di passaggi, di cambi di lato, cioè contro la Germania i palloni decisivi li abbiamo giocati malissimo, un passaggio, un tentativo di tiro. Secondo me appunto la crescita si vede anche in quello, perché anche i compagni hanno preso consapevolezza, insomma, di come si gioca con questi tre. Purtroppo, lo ripeto, insomma, adesso passerà un altro anno e non dico che sarà tutto da ricominciare da capo, ma quasi. Ci ricordiamo che l'anno scorso, no, nelle qualificazioni, sì, europee, le prime due partite brutte, e poi la squadra è cresciuta, sì, giocando nel basket, giocando insieme, avviene di solito questo. Grazie Jerry, un abbraccio. Grazie a voi. Grazie a Jerry De Rosa. E con questo commento sulla notizia peggiore di giornata, cioè l'eliminazione dell'Italia dagli europei, chiudiamo questa puntata di A Tempo di Sport. Si leva dalla regia un cartello. Vi ricordo che A Tempo di Sport è su Twitter, seguiteci anche lì, mi limito a leggere, ma presto saremo anche su Facebook, perché ci stiamo aggiornando, insomma, signori miei. Dunque, domani dalle 2 alle 3 c'è Gigi Garanzini, noi ci sentiamo venerdì dalle 2 alle 3 e poi nel prossimo weekend, che sarà finalmente quello del campionato, sabato dalle 5 alle 6, domenica dalle 4 e mezza alle 7 su questi schermi. Grazie a Giorgio Drucca in redazione, a Fabio Cantadore in regia. Ciao e buona settimana a tutti.